si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento del sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca, insomma le buone notizie e le nuove tendenze che ci salveranno, diciamo sempre noi. Oggi in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, tra i faccioni di George Soros, Zygmunt Bauman, Roberto Saviano, insomma ci siamo anche noi, scusateci se non saremo allo stesso livello, faremo il possibile. E intanto subito i contatti, si può fare su Facebook, si può fare 24 su Twitter e poi anche al numero verde, intervenite in diretta anche oggi come ogni sabato, 800 24 00 24. Cioè che ci siamo, diamo anche l'SMS 349 238 6666. Oh, adesso, come detto, dal Festival dell'Economia di Trento avremo anche un po' di buone notizie dall'economia, se possibile ci proviamo. Iniziamo invece con le notizie da cui partiamo questa settimana. No, io ve lo dico, voglio parlare di questo, il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, per l'efficienza energetica, per le norme antisismiche, è una cosa importantissima questa qua. Finalmente il governo ha prorogato queste agevolazioni fiscali e allora io voglio che stamattina a chiamare siano geometri, architetti, ingegneri, geologi, tutti, insomma, muratori, carpentieri, tutti quelli che lavorano in questo settore, diteci se queste agevolazioni varate dal governo Letta, insomma, vi agevolano e possono far davvero ripartire l'economia. È importantissima questa cosa qua, lo ha detto qualche tempo fa per esempio benissimo anche Romiti. Un lavoro l'Italia ce l'ha, ce l'avrebbe, chiamando a raccolta anche gli italiani. Il lavoro è ricostruiamo quest'Italia, ricostruiamola fisicamente. No, ricostruiamola questa Italia, con le agevolazioni fiscali, per le ristrutturazioni edilizie, per l'efficienza energetica, tutte queste cose si possono fare, costano poco e possono far ripartire l'economia. Questa potrebbe essere davvero la buona notizia di quest'anno. 800 24 00 24. Poi, visto che siamo in tema di cose economiche, voglio segnalarvi questo appuntamento qua a Padova dall'11 al 28 luglio. Vecchi oggetti, nuove vite, ecco l'Expo dell'App Cycling, un movimento nato a livello internazionale che troverà la sua sede proprio a Padova in quei giorni lì della fine di luglio. L'iniziativa, il bando è ancora aperto, si chiama Scrap Out e non è altro appunto che un'esposizione di oggetti che avranno dare nuova vita ad oggetti recuperati, insomma il riciclo, il vecchio riciclo. Però sappiamo che questo è uno dei temi fondamentali della nuova economia, senza questa cosa qua non si può andare da nessuna parte. Poi voglio parlarvi oggi anche di cittadinanza, perché insomma, a Varese, non so quanti l'avranno letto sui giornali in questi giorni, qualcuno ha proposto di togliere la cittadinanza onoraria che è stata data tempo fa a Mussolini. Ora, senza entrare nel dibattito favorevoli o contrari, è un dibattito che tutte le volte si riapre ogni volta che si parla di Mussolini, noi che invece abbiamo una prospettiva così, diciamo, guardiamo in avanti, vi chiediamo: voi a chi dareste la cittadinanza onoraria oggi? Qualche bel personaggio che vi rappresenta, non so, Nelson Mandela, Balotelli per meriti sportivi, oppure Roberto Saviano, ne abbiamo parlato prima. 800 24 00 24, a chi dareste la cittadinanza onoraria della vostra città? E visto che parliamo di cittadinanza, lo Ius Soli, tema quanto mai di attualità. Siamo pronti, l'Italia è pronta per questa cosa qua, ne parliamo tra poco con una persona particolare, un sindaco dal nome impronunciabile semplicemente perché lui è di origini straniere. Non distingo le cose più banali, voglio gli occhiali, voglio gli occhiali. Io non vedo ad un palmo dal mio naso, io vado a caso, sì, io vado a caso. Non distingo le risa dai lamenti, voglio le lenti. Trovare le cose per me è una storia dura, la montatura. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Miope forse è chi non capisce che insomma i tempi stanno cambiando, e quindi per esempio lo Ius Soli, insomma, dare la cittadinanza con qualche agevolazione in più rispetto a quello che avviene adesso in Italia ai nostri amici stranieri mannati in Italia, insomma è una cosa che bisogna farla, farebbe stare meglio tutti. Abbiamo convocato, lo dicevamo, un primo cittadino, forse uno dei primi in Italia a portare un nome completamente straniero perché lui è di origini egiziane. Salutiamo Omar Ali Kamel Hassan, buongiorno. Omar. Chi ascolta la cosa. Buongiorno. Eccolo, adesso lo sentiamo. Tutto questo, questo nome lungo detto in italiano, come la chiamano, sindaco? Semplicemente Omar. Omar, sindaco di in provincia di Oristano, di Modolo o Modolo, esatto, come si pronuncia? Sindaco di Modolo in provincia di Oristano. Un piccolo paese. Un comune situato a metà strada tra Alghero e Oristano, appunto, un comune costiero. Ecco, parte subito con la Proloco, ci spiega dov'è il comune, certo, e quali sono le bellezze del paese. Senta, lei è stato eletto da poco, no? Con l'ultima tornata, al primo turno. Riconfermato, in realtà. Riconfermato. Tanto giovanissimo, esatto. Lei, perché quanti anni ha? Allora, in questo momento io ho 32 anni, ma sono stato eletto per la prima volta all'età di 27, quindi è una riconferma proprio al secondo mandato. Ecco, come sentite l'accento sardo è riconoscibilissimo, però lei porta un nome e un cognome egiziano, perché suo padre era egiziano. Sì, mio padre è egiziano, quindi egiziano. Lo era e lo è tuttora, anche se adesso comunque ha la doppia cittadinanza, però in realtà è egiziano. Tanto voi con i vostri parenti vi vedete, loro vengono qua, voi andate in Egitto, no? Ci sono anche sacco. Assolutamente, assolutamente, senza nessun problema, ci mancherebbe pure. No, ma poi guardi, se mi posso permettere, sì? Io sono rimasto abbastanza stupito, intanto la ringrazio appunto per l'opportunità che mi dà anche di promuovere in qualche modo il mio paese, però sono rimasto molto stupito del fatto che una notizia, che qua di fatto non è una notizia, abbia fatto così tanto clamore a livello nazionale. Nel senso che nel mio paese, nella mia comunità, ma anche nel territorio, diciamo, dove il mio comune è situato, era una normalità che ci fosse, che ne so, la mia candidatura. Nessuno ha pensato che questo potesse generare così tanta curiosità. In effetti, invece, lo so, è un effetto ottico però, sindaco, perché visto da vicino questa sua elezione da parte di chi la conosce e quindi sa che, insomma, lei è sardo a tutti gli effetti, o anche se ha questa quarto, diciamo, egiziano, comunque è degno assolutamente di essere primo cittadino. La cosa vista da lontano, vista dai giornali nazionali, e in un periodo in cui si parla di diritto di cittadinanza per i figli di stranieri nati in Italia, fa un certo effetto, perché non so quanti sindaci in Italia ci sono che portano un nome impronunciabile, esotico come il suo. E questo è un po' il tema. Tra l'altro, ecco, veniamo a bomba. Lei che porta dentro di sé questa radice straniera in Italia, ma ormai più italianissimo, perché si sente anche da come parla, cosa ne pensa dello Ius Soli? È l'ora di farlo? Sono assolutamente d'accordo, ma non per una difesa d'ufficio di posizioni che potrebbero essere indifendibili, assolutamente no, per il fatto che io credo che per una questione di uguaglianza fra cittadini gli stessi diritti vadano comunque garantiti a tutti. Poi, nel momento in cui una persona nasce in Italia, viene educata in Italia, viene formata in Italia, avrebbe solo da dare in più per il nostro paese. Abbiamo così tanto bisogno di ripopolare il paese che sta invecchiando, di avere nuove anche opportunità in termini di di genialità, di che ci portino ad avere più sviluppo, visto che in questo momento siamo in una fase di stallo, e avere magari nuove risorse, anche se arrivano oltre confine, diventa un problema. Io credo che non siamo al passo coi tempi. Chi pensa qualcosa di diverso non è al passo coi tempi. E poi c'è anche un'altra cosa, no? Diciamolo, perché la questione della cittadinanza è anche del rinnovo del permesso di soggiorno, per esempio legato al lavoro. Cioè, pensiamo a uno straniero in Italia da alcuni anni, da 10 anni, a un certo punto perde il lavoro, rischia di dover tornare nel suo paese anche se è 10 anni che sta qua. Cioè, in questa fase di disoccupazione è impensabile che uno, in base alla legge, se perde il lavoro rischia di perdere anche la possibilità di stare qua, perché allora questo dovrebbe valere anche per un italiano. E poi, insomma, dei problemi ci sono sempre con la cittadinanza, con i documenti. Snelliamole queste cose per tutti. Anche lei mi diceva che col suo nome e cognome qualche problema sui documenti ce l'ha avuto, no? Purtroppo l'ho avuta, qualche difficoltà l'ho avuta nel passato, perché purtroppo la difficoltà nel riuscire a scrivere correttamente il nome e il cognome portava talvolta a mettere in dubbio il fatto che la persona inserita in determinati documenti fosse effettivamente io. Quindi, anche per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti, ho avuto dei forti problemi, ho dovuto comunque fare un iter particolare per riuscire a dimostrare la mia vera identità, per errori puramente materiali, ecco, di trascrizione, null'altro. E va bene, io la ringrazio, Omar Ali Kamel Hassan, detto Omar, per questo suo intervento. Il sindaco di Modolo, in provincia di Oristano, avete sentito, un piccolo paese, un cittadino d'origini straniere, però che si è conquistato la fiducia, poi d'origini straniere, insomma, lontanamente, perché insomma lei è italiano, via, diciamolo. Certo. Guardi, io la ringrazio per questa opportunità, sì. La esorto, lei e il suo pubblico, quando se potete, di venire a trovarci, le faremo assaggiare la nostra stella Malvasia, che è un prodotto tipico e che ci caratterizza molto. E la ringrazio di nuovo, le auguro buon lavoro. Che cos'è che ci fa assaggiare, sindaco? La nostra meravigliosa Malvasia, un vino pregiatissimo che caratterizza tutto il nostro territorio. Vabbè, insomma, l'orario è già quasi adatto all'occasione. Grazie per essere stato con grazie noi, Ius lei. Soli, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, vi chiediamo anche di intervenire su questo. Siamo pronti per questo o no in Italia? Si può fare cronache da un paese migliore. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Insomma, è bella la storia di Omar Ali Kamel Hassan, il sindaco di Modolo, in provincia di Oristano, mamma italiana, papà egiziano, riconfermato sindaco, quindi insomma ormai italiano a tutti gli effetti, però è dovuto passare anche lui attraverso alcune trafile. Ius Soli, 800 24 00 24, vi chiediamo oggi, si può fare, se siamo pronti per questo passo, sì oppure no. Adesso invece, visto che giustizia lenta, purtroppo si sa, è una regola in Italia, arrivano i tribunali privati. Prego, signore, per una denuncia. L'avete perquisito? Non ancora. Schedato? Non so. Impronta digitale? No. Guarda. È recidivo? Ma che? È un evaso? Chi è questo? Dottor, è un caso di emergenza. Emergenza? Come? Un momento, si tratta di un assassino. Ma delinquente, me la porta così sciolta, senza manette. Chi? No. Porta la manetta io. Non lo sicuro. No, ma per carità, ma che assassino delinquente? Mi fate ammazzare ammanettato. Ma chi l'ammazza ammanettato? Vogliono ammazzare me. Non faccio... A me vogliono ammazzare. Lavatemi le manette. Ma non ce l'ha le manette. La vogliono ammazzare? Sì, signore. Ah, bravo. Ma fa piacere, sono contento. Ah, sì? Sì, a me piace le nozze. No, perché io scopro gli assassini, a me gli assassini ce l'ho qua. Vabbè, questo mi fa piacere. Vedi. Insomma, l'abbiamo detto, arrivano anche in Italia i tribunali privati. Detta così sembra un po' strana, una via extragiudiziale, giudiziaria per farsi giustizia. No, non è proprio così. Parliamo dell'arbitrato. L'arbitrato è una tecnica per, insomma, risolvere le controversie che esiste, nota da tempo. In America, per esempio, va per la maggiore nella giustizia civile. In Italia siamo un po' in ritardo, perché fino ad oggi ha riguardato solo le grandi aziende. Adesso, invece, grazie a una nuova iniziativa, sarà possibile per ogni cittadino tentare questa strada per, insomma, fare, per risolvere un pochino più velocemente casi di giustizia, che sappiamo in Italia ce ne sono tantissimi. Adesso me ne ho segnato uno, una cosa straordinaria che è accaduta a Campobasso, non trovo più la notizia, non importa. Salutiamo Agostino Celano, presidente nazionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo. Buongiorno. Buongiorno, dottor Celano. E io ero andato a cercare questa notizia perché, insomma, ci sono dei casi clamorosi, no, di giustizia lenta. Questo era un cittadino che addirittura ha fatto causa al tribunale, tanto era stata lenta la causa, che aveva avuto una causa commerciale. Parliamo di giustizia civile. Che cosa è possibile fare da qualche mese a questa parte in Italia grazie alla vostra iniziativa? Ma diciamo che da qualche mese non proprio così. L'arbitrato è nato a origine mitiche, per cui mitologiche, è sempre esistito la funzione di arbitrato. In Italia da un anno a questa parte si sta cercando di divulgare e di far conoscere ai cittadini questa forma giuridica privata che accorcia i tempi e i costi a rispetto alla giustizia ordinaria. Perché accorcia i tempi, ce lo spiegherà, ma anche i costi? I costi, perché quando sì. Si sente parlare di giustizia privata, uno pensa privato comunque si spende, invece no. No, assolutamente no. Perché questo? Perché in arbitrato la procedura che permette la risoluzione delle controversie senza bisogno di ricorrere alla causa civile, e si può presentare le due parti, per cui i due attori, in udienza senza anche di un avvocato, se sono cause di piccolo livello. Non si va di sicuro a eliminare l'avvocatura, questo no, perché bisogna collaborare tutti assieme, ma quello che bisogna riuscire ad avere oggi è dare un servizio al cittadino meno noioso e più veloce. Ecco, come si fa, se io sono, insomma, un cittadino qualunque, come sono poi in realtà, e sono interessato, diciamo, a questa modalità, all'arbitrato, ho una controversia in corso, oppure sto per firmare un contratto commerciale dove ci sono le clausole sul tribunale di riferimento e voglio evitare di finire nelle grane con la giustizia ordinaria, perché so che potrebbe durare... Quant'è la media di una causa civile in Italia, dottor Celano? Almeno 4 anni. Ecco, se voglio evitare di cadere in questo, cosa faccio? Vado sul vostro sito, cerco la sede più vicina a casa mia, è così? Certo, va sul sito www.tribunalearbitrale.it, cerca la sede o la delegazione più vicina a casa sua. Noi abbiamo coperto tutte le regioni italiane e già 12 province. Deposita i suoi documenti dove richiede o l'arbitrato volontario o la conciliazione volontaria, o se c'è una clausola compromissoria richiede l'arbitrato. Ecco, ma mi tolga la curiosità, perché non si rischia un conflitto di interessi se io per esempio ho una causa con, e ho un avvocato e l'avvocato è socio dello studio dove si svolge poi la decisione arbitrale, non si rischia che io sono avvantaggiato o svantaggiato? No, perché il giudice arbitrale che andrà a giudicare la questione deve firmare un apposito documento che non ha conflitti di interesse, deve essere neutrale alle parti, pertanto... il caso che ho fatto io ad esempio, quindi sarebbe escluso, non può venire? È escluso, può partecipare il suo avvocato se si nomina un collegio arbitrale, formato da 3 giudici arbitrali. Stiamo parlando di una cosa, sì, mi scusi se l'ho interrotta, voleva finire? Mi dica. No, finisca lei, se no siamo qua invece, tutta la mattina. Invece, in caso di giudice unico, viene scelto dalla Commissione o dalla Segreteria Nazionale in modo tale da garantire che ambi le parti non abbiano contatti col giudice che andrà a giudicarli. Perfetto, giudice imparziale. Stiamo parlando, stavo dicendo, di una cosa che in America vale che percentuale di tutte le cause civili, mi diceva lei, piuttosto alta? È molto alta, sono arrivati circa il 92% in America, ma senza... Cioè il 92% di cause civili si risolvono con questo metodo di cui stiamo parlando adesso. Il metodo alternativo, ma non e invece in Italia... In Italia quanto è la percentuale? In Italia purtroppo siamo al 6-7%. Però grazie al vostro impegno probabilmente questa cosa è destinata, insomma, a crescere, ad aumentare. Dicevamo i costi, facciamo un esempio. Un esempio, non lo so, una lite di condominio. Una lite di condominio che può essere, non so, di un valore di 25.000 euro, valore della causa... totale tra il lodo e i diritti di segreteria viene a costare al massimo 2.000 euro in tutto, non tra parte, per cui se stiamo a vedere... Beh, sappiamo che sì, le spese legali per cause di questo tipo possono raggiungere anche cifre di pressione, non direi più economico, direi che costa uguale. Euro, certo. Lei dice che sono anche più care. Beh, comunque, e in quanto tempo voi riuscite a emettere un giudizio in genere? Allora, come regolamento nostro entro 180 giorni, ma è anche disciplinato dal codice di procedura civile, di solito nell'arco dei 60-90 giorni la chiudiamo. E va bene, insomma, abbiamo aperto una finestra anche su questo mondo qua con il dottor Celano. La giustizia, secondo il tribunale, secondo l'arbitrato, noi abbiamo sintetizzato tribunale privato, non è proprio così, è una via da seguire. Grazie per essere stato con noi, dottor Celano. Insomma, grazie a voi e grazie a Radio 24 per l'opportunità che ci concedete di promuovere l'arbitrato. Ci abbiamo provato, www.tribunalearbitrale.it. Prego, signore, per una denuncia. L'avete perquisito? Non ancora. È schedato? Non so. Impronte digitali? No. È recidivo? Ma che? È un evaso? Chi è questo? È un caso di emergenza. Emergenza? Un momento, si tratta di un assassino. Delinquente, me lo porta così sciolto, senza manette. Chi? Questa insomma era la storia, avete sentito, il tribunale arbitrale europeo che sta sbarcando in Italia proprio in questi mesi. Adesso invece riprendiamo la nostra rubrica amenità italiane. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia pum, la terra dei cachi. Oh, noi siamo abituati a sentir parlare di spending review, di tagli, di chiusura di enti, tutte cose positive. Accade per esempio in Sicilia che è stato chiuso il Ciapi, non chiedetemi cos'è, è uno dei 100.000 enti italiani, però per il troppo zelo del presidente Crocetta è successo che l'ente è stato chiuso, ma i dipendenti non sono stati trasferiti altrove. Ogni mattina, da un po' di tempo, 38 dipendenti vanno a lavorare in un ufficio dove non succede nulla perché l'ente è stato chiuso. E vabbè, insomma, bisognerà fare qualcosa, eh? Effetti collaterali della chiusura degli enti. Quest'altra invece è una notizia, insomma, della serie c'è speranza per tutti, no? Non è mai troppo tardi, tutti hanno diritto a una seconda chance. Vi ricordate l'onorevole Cosimo Mele, quello dell'UDC che era stato beccato una notte con delle escort in un albergo romano, una era finita in ospedale per un'overdose, insomma non proprio una serata da ricordare per l'onorevole Mele. Ecco, adesso lui è candidato al ballottaggio per il comune di Carovigno in provincia di Brindisi e se la giocherà col candidato del centrodestra, tal Antonia Gentile. Insomma, al primo turno ha preso dei voti e io non so che dirvi, evidentemente qualcosa di buono da fare e da raccontare ce l'ha ancora l'onorevole Mele. Io mi domando, fra tanti candidati, proprio lui doveva andare a beccare. Vabbè, c'è una seconda chance per tutti, questo è un po' il senso della notizia. Adesso invece ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Startup, idee imprenditoriali dal Festival dell'Economia di Trento, parleremo con l'impresa che promuove il biorestauro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Un lavoro l'Italia ce l'ha, ce l'avrebbe, chiamando a raccolta anche gli italiani. Il lavoro è ricostruiamo quest'Italia, ricostruiamola fisicamente. Oh, e ricostruiamola questa Italia. La notizia è questa: di ieri il governo ha rinnovato il bonus per l'efficienza energetica, salirà al 65%, prorogato per tutto il 2014. C'è il bonus fiscale anche per l'edilizia antisismica al 50%, anche per l'arredamento, un aiuto per l'economia, ma nella direzione giusta, cioè nella direzione della sostenibilità, del recupero e della messa in sicurezza del territorio italiano. Una bella notizia. Allora io voglio che oggi a chiamare siano 800 24 00 24, gli architetti, gli ingegneri, i geologi, i muratori, i carpentieri, diteci se questa è secondo voi una bella notizia. Al numero verde cominciamo con i vostri interventi, abbiamo Eugenio che ci chiama da Roma. Buongiorno Eugenio. Buongiorno, grazie per avermi risposto. Senta, le volevo fare una precisazione riguardo a quell'argomento che avete toccato prima circa il diritto di cittadinanza. E a quel sindaco di quel paese in Sardegna, premetto che io sono favorevole all'immigrazione e favorevole anche, magari ce ne fossero di più persone come quel sindaco, però forse voi l'avete affrontato un pochino troppo semplicisticamente. E il tema dell'immigrazione e conseguentemente del diritto. Però non ci faccia un simposio sull'immigrazione perché non ci interessa nulla. No, le è piaciuta la storia del sindaco. Cosa ne pensa lei dello Ius Soli? È favorevole o contrario? Ius Soli è dato in quel modo così a tutti a pioggia, secondo me è profondamente sbagliato perché il problema è molto più articolato. Dato invece in modo intelligente e articolato sarebbe favorevole. Grazie Eugenio, basta. Passiamo a... no, perché sennò apriamo un dibattito sull'immigrazione e non ci interessa nulla. Marino da Catania, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, innanzitutto mi complimento con lei per la sua professionalità e la sua obiettività. E ho sentito che è una proposta della sua trasmissione, un argomento della sua trasmissione è la proposta di cancellare, di eliminare, abolire la cittadinanza a Mussolini a Varese, la cittadinanza onoraria. Io però ho chiesto, voi a chi dareste la cittadinanza onoraria a questo punto? Ecco, no, ma io guardi, non ho questa presunzione di fare questa proposta, che non ho le competenze, però una proposta mi permette di farla, sì. Non sono di parte, non sono fazioso, però siccome c'è questa proposta, io per par condicio propongo che sia eliminata, cancellata dalla città di Bologna la via Stalingrado, che ogni volta che bene, così siamo pari, mi sento ha ragione. Disagio e tutti i sì. cittadini stranieri che vengono a visitare l'Italia, questa bella città. Ma lei è di, no? Ma lei è di Catania, che c'entra con Bologna? No, c'entro con Bologna perché sono un emigrato al rovescio, io sono un nord, sono È finita a Catania, però ha origini Bologna. Vabbè, no, però io avevo chiesto, grazie Marino, io avevo chiesto un'altra cosa, però è come sempre più difficile fare le proposte in positivo che quelle in negativo. Volete togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini, a Varese, va bene, volete togliere via Stalingrado a Bologna, va benissimo, invece a chi dareste la cittadinanza onoraria per merito? Io ho fatto tre esempi, Mandela, Saviano o Balotelli. 800 24 00 24. Adesso avevamo annunciato idee imprenditoriali nuove, cioè chi ha visto la luce. Tu hai visto la luce? La banda! Tu hai visto la luce? Quale luce? Lui ha visto la luce! Sì! Sì! Ho visto la luce! Insomma, loro hanno visto la luce. Parliamo dei Micro4U, impresa che lavora nel biorestauro. Adesso cercheremo di capire che cos'è. Una delle finaliste del premio Startup Pinai Cube, premiato proprio ieri qua al Festival dell'Economia di Trento. Salutiamo Annalisa Balloi. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. In cosa consiste la vostra impresa e poi diremo anche perché siete stati, diciamo, tra i finalisti, anche se non avete vinto, però avete comunque meritato la menzione tra i 10 finalisti di questo importante premio di startup. Sì, Micro4U è una società che nasce dalla ricerca in laboratorio. Infatti le persone che fanno parte del team vengono tutti da un ambito accademico, siamo microbiologi, con un sogno nel cassetto, quello di realizzare dei prodotti ad uso quotidiano a partire dai microorganismi. E uno dei settori di maggiore interesse per noi è quello proprio dei beni culturali. Infatti abbiamo realizzato che in Italia un prodotto. In Italia sono una cosa importante, bisogna salvaguardarli, sì, perché sono, diciamo, la nostra, il nostro tesoro per il turismo. È importante, esatto, ricordarlo. Infatti noi in realtà siamo partiti da quello che ci circonda, dai microrganismi che fanno parte della nostra quotidianità e poi dalle bellezze del nostro patrimonio artistico. E come funziona questa cosa? Un link che unisce il tutto, quindi batteri per il restauro. Perché i batteri praticamente, se applicati, ora io dico in modo così, insomma, un po' semplificando, sulle superfici da restaurare, voi vi mettete lì, incrociate le braccia, guardate e i batteri intanto si mangiano, si rosicchiano, sì, tutto l'inquinamento, lo sporco. Sì, così. Esatto, infatti purtroppo è un'esperienza comune quella di passeggiare nelle strade delle nostre bellissime città e vedere statue e monumenti deturpati proprio dalle vere e proprie croste nere causate dallo smog. Che è un'alterazione di natura solfattica. Ebbene, ci sono di natura, mi scusi? Di natura? Di natura solfattica. Quindi il solfato presente nello smog che aggredisce la superficie litoide determinando questa caratteristica crosta nera. Ebbene, ci sono nell'ambiente dei batteri che sono in grado, grazie al loro metabolismo, di ridurre i solfati, cioè usano il solfato come noi usiamo l'ossigeno per respirare. E questo fa e quindi in modo si nutrono batteri, praticamente di questi, cioè i batteri si nutrono di questa crosta nera, praticamente, sì, vivono, esatto, di quello, esatto, e la eliminano. Sì, la eliminano, quindi proprio destrutturano la crosta nera e quindi una volta applicati e lasciati agire per 7-8 ore, quindi il restauratore non deve fare altro, sì, che appunto applicare pensa il prodotto, fortuna, e fare in modo che i batteri lavorino per al posto suo. Cioè, ma poi vi fate pagare lo stesso, anche se fanno tutto il lavoro i batteri? Sì, voi vi fate pagare lo stesso. Certo, noi ci facciamo pagare il lavoro, sfruttiamo i batteri. Cioè, trovalo tu il batterio giusto da mettere sulla parete di casa tua e del tuo palazzo. È un'idea straordinaria. Sì, quello ci stiamo lavorando su. Infatti il claim della nostra azienda è the microbes for your needs, cioè il microorganismo giusto per il tuo bisogno. C'è un'applicazione di questa cosa straordinaria anche, per esempio, io avevo visto da qualche parte per la depurazione, non so, delle acque o per le bonifiche delle zone paludose dove si mettono questi batteri che si mangiano lo sporco, il petrolio, sì, per esempio. Sì, assolutamente, quello dell'utilizzo dei microrganismi in bioremediation è una pratica che sta diventando sempre più comune per bonificare i siti inquinati. Pensate, è straordinario questa cosa qua, cioè uno deve solo coltivare la, diciamo, la flora batterica giusta per quella situazione, sì, lì, e poi il lavoro è fatto, quasi, insomma. Esatto, esatto. I batteri possono fare tantissime altre cose, per esempio una linea di ricerca sulla quale stiamo lavorando che è molto promettente è l'utilizzo dei microrganismi in agricoltura per risparmio idrico. Mm-hmm. Qua sono dei probiotici, sì, per le piante. Vabbè, insomma, adesso non ci addentriamo perché sennò diventa una lezione di scienze e non è il giorno perché è sabato, è quasi l'ora di fine scuola. Invece, quanti siete in questa impresa? Quante persone lavorano su questa idea? Voi in particolare? Allora, siamo 6 soci e 3 dipendenti. Insomma, e dove operate? In tutta Italia o in particolare in una zona? Beh, la nostra sede operativa e sede legale sono a Milano, però noi collaboriamo e abbiamo commesse da tutta Italia. Dove potete? E un caso d'eccellenza, qualcosa che siete riusciti a ripulire straordinariamente bene, che portate come fiore all'occhiello, qual è? La statua che mi piace presentare sempre in diverse occasioni è quella del monumento funebre alla scrittrice Anna Zuccari, che si trova al cimitero monumentale di Milano. Ah, questo è venuto bene, insomma. Questo è il nostro fiore all'occhiello. All'occhiello. E, insomma, immagino che le menzioni del premio Pinay Cube che avete preso, insomma, dell'aver partecipato alle finali ieri a Trento siano legate a tutto quello di cui abbiamo parlato. Complimenti, grazie per quello che fate, e dateci dentro, assumete un po' di persone in più, crescete, così fate del bene anche all'economia. Sì, è il nostro obiettivo. Grazie, tutto sta a farsi finanziare, cioè a trovare le pubbliche amministrazioni o i privati che vogliono questo servizio, no? Penso che sia questo un po' il punto. Però, visto la quantità di monumenti che ci sono in Italia, qualche sovrintendenza delle belle arti, qualche comune un po' meno indebitato degli altri che ha sentito l'intervista, magari vi chiama. Magari, grazie mille. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Adesso un'altra idea di impresa viene da un altro concorso fatto questa volta tra i giovani, non ancora imprenditori ma aspiranti. La tua idea di impresa di Confindustria è una cosa che ha a che fare con le sigarette. La canzone si chiama Cigarette, anche se non si sente dal testo perché siamo entrati un po' troppo prima, non importa. L'idea d'impresa è questa: recuperare i mozziconi delle sigarette per farci qualcosa. Adesso capiremo cosa. Stiamo parlando del premio La tua idea d'impresa, organizzato da Confindustria. 1500 ragazzi, 26 associazioni di Confindustria, 88 istituti superiori coinvolti, e noi siamo in collegamento con la scuola di Tortona, l'Istituto Marconi Carbone di Tortona, con il progetto Reuse Boots Cigarettes. Forse ho pronunciato male l'inglese. Salutiamo Martina Albanese, che è a scuola, tra l'altro. Sì, buongiorno. Martina, ti abbiamo sottratto qualche minuto alla lezione di che cosa? Di italiano. Vabbè, insomma. Sì, recupererai lunedì prossimo. Una delle menzioni di questo premio. Intanto, vincete qualcosa? Cioè, ve la fanno fare questa impresa? Sì, allora abbiamo vinto 2 giornate formative all'Università LUIS di Roma, dove ci insegneranno a trattare proprio quest'idea e come lanciarla sul mercato. Quindi... Martina, io non so l'inglese benissimo, come si pronuncia il vostro progetto? Reuse? Reuse Buds Cigarette. Buds. Perché è reuse e mozziconi delle sigarette. Sì, sarebbe riciclo dei mozziconi di sigaretta. Per farci che cosa? Qual è la vostra idea? Allora, abbiamo scoperto che immergendo i mozziconi di sigaretta fermenta nell'acido cloridrico a 90 gradi si ottiene un succo che può essere utilizzato per creare una vernice antiruggine. Ah, fantastico. Soprattutto in particolare per un tipo di acciaio che si chiama N80, che attualmente è impiegato nella fabbricazione di trivelle da perforazione. Cioè, quindi praticamente voi dite si fanno due cose buone in una, si incentiva il recupero dei mozziconi di sigarette che in effetti... Che a livello ambientale comunque sono un danno per l'elevata composizione chimica. Anche perché per riciclarli, quelli, cioè per trasformarli naturalmente credo che ci vogliano migliaia di anni, non lo so, adesso sto sparando una balla, non so se vi siete informati su questo. Ma questa idea, diciamo, è farina del vostro sacco oppure vi siete informati, avete letto, avete scoperto questa cosa? Allora, e quindi poi... noi siamo partiti così, cercando qualcosa che ancora non venisse riciclata e abbiamo fatto una ricerca su internet e abbiamo trovato... una rivista americana che pubblicava proprio questo metodo di riciclo dei mozziconi. In realtà quindi, l'unico concorrente sarebbe proprio questa azienda americana che si chiama TerraCycle e che proprio opera questa raccolta dei mozziconi e la trasformazione. Martina, resta ancora un attimo, un secondo con noi, tanto ormai la lezione in italiano, l'ultima mezz'ora, mi sa che ce la siamo giocata, però ne valeva la pena per questo bel premio che avete ricevuto. Facciamo il traffico e poi ti voglio chiedere se questa impresa la volete fare davvero da grandi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo con Martina Albanese dell'Istituto Marconi Carbone di Tortona con il progetto Riusa i mozziconi di sigaretta che ha vinto uno delle start-up, delle idee di impresa vincitrici del concorso di Confindustria, la tua idea di impresa. Martina, la volete fare davvero questa impresa? Cioè da grande, al di là poi di questa bella idea che avete avuto, chissà se avrà un futuro. Vuoi fare l'imprenditrice? Siamo molto motivati e infatti il 26 giugno parteciperemo a una conferenza sempre a Roma. Speriamo di trovare qualche investitore, quindi di rendere questo progetto concreto. Coraggio ce ne vuole, perché per fare gli imprenditori oggi in Italia, lo dicono tutti, ci vuole coraggio. Voi non avete paura di questo? Non ti spaventa questa strada, Martina, no? Sì, certo, però comunque aver vinto questo premio ci dà comunque la speranza che ancora le idee vincenti ci possono essere. E allora grazie, forse fa in tempo a entrare ancora in classe per qualche minuto, ci perdonerà l'insegnante d'italiano che insomma gli abbiamo strappato l'allieva, però ne valeva la pena. Questo era il progetto premiato dalla tua idea di impresa di Confindustria. Adesso abbiamo il tempo forse per sentire un ascoltatore, abbiamo Leone da Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare sull'argomento degli sgravi fiscali per ristrutturazioni, vorrei dire una cosa improbabile. Lei cosa fa nella vita? Ingegnere, architetto, geometra, niente? No, io sono impiegato. Va bene, ci dica. Vorrei dire una cosa in controtendenza, sono contrario alla diminuzione o a sgravi fiscali su questo tipo di attività, per due ragioni. Prima è che evidentemente tolgono risorse agli sgravi fiscali sul lavoro, che da tempo tutti... Ma guardi che lavoro anche questo, perché quando uno fa l'efficienza energetica c'è qualcuno che lavora, quindi questa la bocciamo. Non c'è dubbio, la seconda? Non c'è dubbio. La seconda? È chiaro, ma... La seconda, diciamo, abbiamo solo 30 secondi. La seconda è che sono sgravi fiscali tendenzialmente regressivi, ovvero sia che tendono ad andare a vantaggio soprattutto delle persone della società che sono coloro che hanno maggiori redditi o maggiori ricchezze, in quanto vanno a vantaggio di coloro i quali hanno ingenti una certa quantità di tasse da pagare, essendo sgravi fiscali, quindi chi guadagna troppo poco non può utilizzarli per portarli in detrazione. Va bene, ho capito. Questo argomento però, grazie Leone, mi pare un po' deboluccio, perché vale per tutto, no? Solo chi può spendere può far ripartire l'economia, questo è evidente, a tutti i livelli. Certo, l'efficienza energetica non sarà una priorità delle famiglie più povere, però magari una famiglia povera c'ha un muratore in casa che può lavorare su questo. Adesso è il momento di Camilla Masala. Thank you. cose va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché... perché ci vuole orecchio. E Camilla ce l'ha l'orecchio per le notizie sostenibili. Camilla Masala, Populito.com, a Novara, lavanderia di pannolini ecologici, la nostra amica del verde. Camilla, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Alessio. Oggi in qualità di inviata al Festival Cinema Ambiente di Torino. Di che si parla? Che film si vedono? Dacci qualche anticipazione. Sì, si è inaugurato ieri, sarà comunque aperto fino al 5 giugno, quindi settimana prossima, avete tempo di venire a Torino per incontri, comunque eco-talk e soprattutto guardare una bella rassegna di 80 film e documentari a carattere naturalmente ambientale e di sostenibilità economica e sociale. Tu avrai scovato qualche primizia, cosa ti vai a vedere tu in settimana? Allora, sicuramente mi vado a vedere, questo è anche in tema un attimino col nome della nostra rubrica, vado a vedermi un bel documentario tutto italiano che si chiama Parole Sostenibili, del regista Marco Dazzi, tra l'altro un girato tutto in Super 8, che è un viaggio intorno al mondo alla ricerca di come le persone percepiscono la parola sostenibile e che cosa significa per ognuno la parola sostenibilità, che di solito è una parola di cui si abusa. Potremmo fare un sondaggio anche qua al Festival dell'Economia di Trento, la gente che passa davanti al nostro stand, probabilmente la metà non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, purtroppo. Però poi magari lo riferiscono comunque a settori diversi, chi ha l'economia, sì, chi ha l'ambiente, sì, chi ha il sociale. Ecco. Insomma, e quindi se uno viene lì a Torino al festival va a vedere anche questo film e si fa un'idea insomma anche concreta di questo. Naturalmente poi chi viene lì è già motivato, no? Perché sono gli amanti del cinema ma anche gli amanti del dell'ambiente, della sostenibilità, esatto, appunto, Camilla. Esatto. E poi però c'è un'altra cosina che voglio farti dire, abbiamo poco tempo perché chiudiamo. Questa settimana, non so perché ci sono sempre le settimane europee, i giorni internazionali dei parchi. Sì, questa settimana, in realtà poi c'è anche un altro giorno, il 5 giugno, è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi altra giornata comunque che si aggiunge ad altre giornate. Il 2 giugno, che è domani alle 6:30, viene proiettato un documentario che ci permette di incontrare i monaci benedettini del monastero di Camaldoli, che stanno diventando molto importanti perché comunque nel corso dei secoli hanno costruito un codice forestale che comunque ha avuto l'obiettivo di preservare quello che sono le foreste della zona toscana di Camaldoli. Chi è incuriosito da questa cosa qua, la mettiamo su Facebook, facciamo così, da questa settimana inauguriamo questa cosa, le notizie. Lavoro l'Italia ce l'avrebbe, chiamando a raccolta anche gli italiani. Il lavoro è ricostruiamo quest'Italia, ricostruiamola fisicamente. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì!